RadioTube Social Network. La prima ora, quella di RadioTube Social Village, è stata piena di cose belle, tanta musica, un po' di comicità con questa edizione, questa Covid edition di Zelig dalle 18 su Nati Live e sul profilo Facebook di Zelig, ma anche di tanti attori, con uno scopo benefico, così come uno scopo benefico allo stadio nel cassetto, questa canzone di cui abbiamo parlato con Roberto Razzini e con Nicola Ventola. Avete sentito la sua passione? Secondo me abbiamo un futuro nella musica, io già lo intravedo. Le cinque canzoni che abbiamo riascoltato e riscoperto questa settimana tra le 45 dei Love My Radio, ma avevamo iniziato con l'ultimo album, andate ad ascoltarlo davvero come fosse un film, dei Perturbazione. Adesso però è la seconda ora, quella di RadioTube Social Network, quella in cui ci dedichiamo all'attualità della rete e dalla rete. Tanti argomenti divertenti, appassionanti, anche esilaranti, ma anche tanta cronaca, tante cose che ci hanno fatto arrabbiare, spaventare, anche un po' sconsolanti e sconfortanti in questa settimana, sempre con un co-conduttore d'eccezione. Questa volta ci colleghiamo con Torino, con un collega della stampa che è un grande amico di RadioTube, con Roberto Pavanello. Ciao Roberto! Buon pomeriggio Marta, buon pomeriggio ai radioascoltatori. Ah, che bello, ogni tanto dà soddisfazione poter salutare i radioascoltatori. E voi della carta stampata? Ma io tutta la vita la radio avrei voluto fare, altro che scrivere, io voglio parlare in radio. Allora facciamo che appena si può riscappare, e a quanto abbiamo capito si può riscappare molto velocemente, vieni a Milano, vieni in studio da noi e ci facciamo una bella chiacchierata in studio. Roberto, questa settimana tantissima attualità ancora passata dalla rete, io però non posso che partire con una notizia che arriva dall'altra parte del mondo. È insomma un momento molto difficile, sono anche notizie molto difficili da raccontare. Inizierei così. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? I told you before that we are with CNN. If you're just tuning in, you are watching our correspondent Omar Jimenez being arrested by state police. Il reporter della CNN Omar Jimenez, che viene arrestato in diretta dalla polizia mentre sta raccontando i disordini che questa settimana si sono verificati negli Stati Uniti in seguito ad un'altra morte, quella di un altro afroamericano che è rimasto ucciso durante un controllo di polizia. Le immagini le abbiamo viste, abbiamo visto il movimento che si è creato, i disordini gravissimi che ne sono seguiti. La rete ha avuto un ruolo molto forte in questo racconto, Roberto. Sì, anche perché in realtà è stata una passante che ha avuto la freddezza, quasi disperata, di riprendere quello che stava accadendo, ovvero questo arresto con omicidio, e di mettere poi il video online su Twitter, che in pochissimo tempo è diventato virale non solo negli States ma in tutto il mondo. Con la frase I can't breathe, non riesco a respirare, non posso respirare, che è diventata poi una sorta di slogan, una sorta di inno. Difficilissimo in questo momento raccontare quello che sta succedendo, difficilissimo anche per noi che siamo dall'altra parte del mondo, ma come abbiamo visto anche per i giornalisti, sì. Si è arrivati a questo arresto in diretta. Difficile anche non farci entrare la politica, le prese di posizione, Trump, non Trump. Questo è un problema davvero estremamente profondo. Ci mancava solo questo nel 2020, che è un anno difficilissimo. È un problema che negli Stati Uniti è sempre costantemente sul punto di deflagrare, e questa volta è successo. Ma sai, cioè, la presidenza Trump ovviamente ha accentuato una situazione che, come dicevi tu, esiste da decenni, da anni. Vi consiglio a tal proposito una docuserie di Netflix che si chiama Innocence Project, che racconta una serie di processi che sono andati con un innocente condannato al carcere per 10, 15, 20 anni, 30 anni fino alla pena di morte, e quasi sempre sono i condannati sono afroamericani o latinos, o in un unico caso di cui viene raccontato un immigrato ucraino. Quindi insomma, chi? I più poveri. Esiste la questione razziale negli Stati Uniti, esiste la questione sociale negli Stati Uniti. Se tu sei un povero, difficilmente hai lo Stato dalla tua parte, lo Stato in quanto ambito giudiziario. Il giornalista della CNN che è stato arrestato e portato via, dopo poco è stato scarcerato per l'intervento del governatore del Minnesota con tante scuse. Se fosse stato un povero disgraziato, probabilmente sarebbe ancora dentro. Allora, questa serie a cui tu ti riferisci, io ripeto il titolo, che è Innocence Project, vale davvero la pena capire quello che si sta vivendo e che appunto da anni è sempre sul punto di deflagrare, e in questi giorni è successo. Difficilissimo commentarla perché è proprio una situazione talmente complessa che nella nostra trasmissione, in cui parliamo soprattutto di racconto e di comunicazione, davvero evidenzia ancora una volta il ruolo della rete nel diffondere quello che è successo, e questa volta, come avete sentito, anche proprio nel dare la notizia. Ma veniamo un po' anche all'Italia. Questa settimana tanti personaggi hanno fatto davvero il giro della rete. Devo dire che come i volontari civici, in pochi, perché abbiamo cercato di capire che cosa faranno questi assistenti, non si è ben capito, il governatore della Campania De Luca, dobbiamo mandarlo in onda anche questa settimana, perché anche questa settimana ha detto la sua. A me personalmente questa è piaciuta, sentiamo. Il governo, devo dire che ci apre comunque il cuore alla speranza, non ci ha dimenticato. E infatti ha deciso questa straordinaria operazione, direi mistica. Che faranno questi volontari? Possono fare la multa a chi non porta la mascherina obbligatoria? No. Possono fare una multa a chi non mantiene i tavoli, i ristoranti distanziati? No. Possono intervenire a controllare un po' la movida? No. E allora noi ci domandiamo che cosa devono fare questi 60.000. Possono fare moral suasion, cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali. Noi vedremo 60.000 persone andare in giro con il saio, con sopra scritto pentiti, è colpa tua. Bene, possiamo consolarci. Il governo ha deciso di ridare vita, come evidente, dopo 8 secoli. Al movimento degli spirituali, gli allievi di Ubertino da Casale e Jacopone da Todi. Allora, questa settimana De Luca mi è piaciuto. Roberto, io lo dico sempre, secondo me lui ha trovato il suo filone e lo cavalca. Certe settimane io dico no, questa settimana io dico sì. Questa è davvero divertente, perché effettivamente non si capisce bene la ratio di questa iniziativa. A me diverte molto. Sì. Tu sei sempre fan di De Luca? Sei sempre fan? Sì, mi diverto, anche se ovviamente non sempre si può condividere. Però ovviamente il quesito te lo poni. Cioè, comunque Vincenzo De Luca è il governatore, anzi, è il presidente della regione della Lombardia, della Campania, pardon. Quindi non è un attore, non è un comico. Fin dove è giusto che un'autorità politica si spinga in questi siparietti? Questa cosa io effettivamente la sollevo ogni tanto. Questa settimana lo promuovo, però questo insistere su questo filone che funziona rischia di fargli prendere un po' troppo la mano. Forse sì, che ne sì, dici? Anche perché... Però poi vorrei conoscere la scuola di teatro che ha fatto, perché è veramente formativa. C'ha delle pause, cioè... quando ha detto moral suasion con quell'aria bravi, in questo è stato bravissimo. Sì, è numero uno, bravissimo. Scivolone della settimana, secondo me lo scivolone della settimana Milano. Sala, secondo me è suo, sentiamolo. Vedo che alcuni presidenti di regione, come per esempio Toti, il presidente Ligure, dice: accoglierò a braccia aperte i milanesi. Altri, non li cito, dicono: bah, magari se fanno una patente di immunità o qualcosa del genere. Ora qui parlo da cittadino, prima ancora che da primo cittadino. Io però, quando poi deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza, me ne ricorderò. Buona giornata a tutti voi. No, signor sindaco, così no, però... sta qua non... secondo me non gli è venuta benissimo. Però poi magari adesso arrivano... Però possiamo dire, Marta, Lombardia Uberales, perché tu hai giustamente evidenziato la presa di posizione un po' forte di Sala, ma anche RT05 di Gallera non è stato male, che devi contare due contagiati per essere contagiato anche tu, se la gioca con Sala che dichiara guerra a chi non vuole i lombardi in vacanza. Allora, io devo dire che capisco di più Gallera, perché non riesco a non empatizzare con coloro che hanno dei problemi anche con le addizioni. Purtroppo io soffro dello stesso problema, quindi io un pochino capisco che possa non averci capito proprio nulla. Certo, io non sono l'assessore al welfare, quindi posso anche permettermi un po' di più di non sapere di matematica. Però secondo me lo scivolone di Sala non ci voleva. E invece c'è un'affermazione tagliente che mi è piaciuta in maniera particolare, al di là del fatto in sé, poi non mi venite a dire destra, sinistra, ministro, non ministro, no, un'affermazione, una sciabolata, però facciamo prima la viabilità, poi ve la faccio sentire. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora con la seconda ora di RadioTube Social Network. La prima era quella di RadioTube Social Village, la seconda quella dedicata all'attualità della rete dalla rete. Co-conduttore d'eccezione questa settimana direttamente da Torino, dalla Stampa, Roberto Pavanello. Ciao Roberto, ancora con noi. Un futuro da giornalista radiofonico, quando potrò rapirlo futuro, in studio. Quando andrò andrò in pensione, come seconda attività farò il conduttore. Ma perché secondo te noi avremo una pensione. E appunto dovrò fare qualcosa. Che simpatico umorista. Allora, la frase tagliente della settimana, adesso che poi arriveranno i messaggi dei fan della ministra Azzolina, no, non è il merito, non è la notizia. Mi ha fatto impazzire l'espressione che ha usato il vicepresidente dei senatori di Forza Italia Giuseppe Moles durante il question time al Senato. Ha usato un'espressione che io non conoscevo e sono rimasta a bocca aperta, pazzesca, eccola qua. Purtroppo, e mi dispiace sinceramente, lei è riuscita in un'impresa quasi impossibile, unire tutti contro di lei e contro le sue decisioni, sindacati, docenti, dirigenti, persone di ATA, famiglie, studenti. E le ricordo, signor Ministro, che la scuola ha bisogno di credibilità, credibilità, serietà. E la credibilità è come la verginità, è facile da perdere, è difficile da mantenere, ma impossibile da recuperare, signor Ministro. Io non l'avevo mai sentita, c'è anche Roberta in regia che si è piegata in due. Questa cosa della verginità, me la segno perché la voglio riutilizzare. Senatore, non ne abbia male, probabilmente... Non so se lei è l'autore, se ha il copyright di questa, ma io la voglio riutilizzare. Pazzesca sta frase, Roberto. Wow, bella, mi è piaciuta. Non lo so, sai che noi sabaudi siamo un po' rigidi. Io gradirei in Senato avere degli interventi di livello leggermente superiore da quelli che ci sono nei bar della Brianza e di Settimo Torinese. Quindi il tuo entusiasmo questa volta non lo appoggio, anzi... Mi fanno girare altamente le scatole i nostri politici che hanno così abbassato il livello del linguaggio, che invece il buon De Luca nei suoi interventi, per quanto comici, tiene comunque alto perché ha sempre un ottimo eloquio. Niente, il sabaudo non apprezza queste... no, per nulla. Noi così brianzoli, noi brianzoli di Settimo Torino e di Settimo Torino, niente. No, a me è piaciuta, mi è piaciuta tantissimo, anzi me la voglio rivendere. Altro personaggio della settimana è qui. Io non avevo sentito la frase, a un certo punto... Vedo sui social network che si parla solo di Albano. Per un momento mi spavento, perché quando vedi che si parla di qualcuno, c'è successo qualcosa. Invece ha detto questa cosa qua. alla fine, anche se per poco tempo, lungo tempo, il male sta, sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. Esatto. E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo. Muori dinosauro, io ti schiaccio. E povero Albano, non so come gli è venuta, però è stata carina. Roberto è... Come gli è venuta? diciamo che Albano anche in questo caso non è famoso per i suoi studi da paleontologo o da archeologo, indi no. Per cui a Cellino San Marco evidentemente quando in quarta elementare spiegavano i dinosauri, lui era impegnato a imparare a cantare. Giustamente, giustamente, allora. Infatti ha fatto quel, poi nella vita non ha fatto il paleontologo, giustamente. Ma a me di questa cosa mi manda i matti, quando un personaggio del genere, che appunto è un cantante, ma facesse anche il politico, dice una cosa del genere in televisione, raramente c'è qualcuno che si alza e dice scusi. Ah no, allora lo stavo dicendo anch'io, perché io mi metto subito nei panni di chi sta facendo l'intervista, che magari in quel momento, o non dico che sia distratto, però magari in quel momento proprio è una frazione di secondo in cui guarda l'orologio per capire a che punto della scaletta, magari si è distratto un secondo. Oppure il suo cervello registra, no? La frase, ma perché ci capita nella vita normale di registrare la frase con un secondo di ritardo e di pensare, ma che caspita ha detto? Però non, ormai è andato avanti, non gli puoi dire scusa, ma cioè cosa i dinosauri? Perché? E quindi ormai è andata e... E comunque gli diciamo grazie, perché sono giorni che ridiamo su questa cosa. Sì, con tutti i meme possibili. Anzi, guarda, abbiamo il nostro Alessandro Schirano ci ha preparato un pezzettino di uno dei video che sono in tendenza questa settimana su YouTube. Questo è il video dei cartoni morti che sono riusciti a mettere insieme Albano e anche i volontari civici. Eccoli qua. Fiora, donate qui perché sto formando un gruppo di volontari per proteggere la città. Si tratta di un progetto segreto. Quando ho dichiarato questa idea, tutti si sono messi contro. Ma ormai ho già stampato 60.000 pettorine e sarebbe un peccato buttarle. Quindi dichiaro guerra al nuovo pericolo che sta minacciando le nostre vite: la Movida. Voi avrete il compito di far rispettare le regole di distanziamento sociale. Finalmente quei runner avranno quello che si meritano! Dio, quanto li odio! Niente runner, concentratevi su quelli con gli spritz. Tu non mi dici quello che devo fare! Possiamo avere delle pistole. Non potrete avere armi. E un manganello. Nemmeno. E un tirapugni. Le uniche armi che avrete saranno quelle della parola e del sorriso. E che facciamo se quei bastardi non vogliono ascoltarci? Sorridete più forte. Da dove vengo io, parole e sorrisi sono cose da pterodattili. Lo sapevo che saresti venuto, Al. Fidatevi! Che cosa proponi di fare, Al? Lasciate fare a me e a Lily. In men che non si dica, la città tornerà più deserta dell'ospedale in fiera a Milano. Lily, lo pterodattilo insieme ad Albano. Poi va avanti, ovviamente, questo video dei cartoni morti. In rete ci sono le trovate più divertenti di tutti, quindi grazie Albano. Roberto, sì, sì. C'è un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio al 349-238-666, molto critico nei miei confronti. Carissima Marta, ti ascolto spesso e apprezzo i tuoi commenti, ma oggi non ne stai azzeccando una. Che cosa ti è successo? Però dimmi cosa non sto azzeccando, perché io poi mi viene l'ansia. Che cosa non sto azzeccando? Secondo me è dal co-conduttore che bisogna partire. Cioè, quello è stato il primo errore di oggi. No, perché secondo me lei è d'accordo con te, perché sente l'autorità poi in questa tua voce anche calda e suadente. Allora, se non siamo d'accordo io e te, lei prende le tue parti. Però la capisco. A proposito di errori, sì, non è Innocence Project, è Innocence Files. Ho detto sbagliato. No, è Project, è Project. Guarda, ho controllato Project. Innocence Files. Project, guarda Files, Project, adesso. Scusa. Project. No, allora. Guarda, che a Pavanello non lo prendi in castagna sulle serie TV. Io sono uno sfondatore di divano professionista. Scusate, ma dovete sapere che Roberto è il bersaglio di grandi prese in giro degli amici, ma uno degli uomini con la più grande autoironia e il più grande segnalatore di sfondoni giornalistici nel gruppo di amici, e ridiamo grazie a lui in maniera totale. Adesso io però non so se farvelo sentire questo file. Roberta, cosa facciamo? Lo facciamo sentire. Roberta dice di sì. Sai perché non so se farlo sentire? Perché Pavanello mi è un po' sabaudo. E allora poi non vorrei che si scandalizzasse. Vabbè, però tanto è andato in onda in TV Bianca Guaccero questa settimana. E poi ancora avremo con noi Matteo Torretta con la sua cucina, Elisa Dospina con la moda e tanto, tanto altro. A tra poco! Ha detto fatto. Dai ragazze, ditemi come si fa per igienizzare la... Basta. Vabbè, poverina, cioè ha fatto la battutaccia fuori onda. E quando fai la battutaccia fuori onda... era meglio non farla. Perché mi hanno insegnato che in studio, quando c'è un microfono, non si sa mai se può essere aperto. Roberta in regia dice sì, perché le cose possono succedere. Non ha detto niente di grave, non ha detto niente diciamo di grave. Diciamo che Bianca era convinta di essere andata in nero. Anche la base se n'è andata, guarda. Roberta ha spento, sta andando via. No, Roberta, torna. Devi fare regia fino alla fine. Allora, niente. Ma la domanda è, dopo la pubblicità, le ragazze, o durante, hanno spiegato a Bianca Guaccero come si fa? Come si fa? Non lo so. Detergere a... Non lo so, anche perché io... A disinfettare. Perché questa cosa... A sanificare, a sterilizzare... Non lo so, non ho capito. Però conosco qualcuno che lavora in quel programma, chiederò. Ma ragazzi, ma non è una sfida tra me e Pavanello? Allora, la battuta sulla verginità e dozzinale è inappropriata, viva Pavanello, scrive un ascoltatore romano. Grazie, dice grazie. Dunque, gemellaggio Roma-Torino con, ho sempre sostenuto come parecchi lombardi abbiano un pessimo gusto, Marta Cagnola ne la conferma. Niente, ragazzi. No, non ci posso credere. Cioè, è umiliante per me. Proprio. Poi, sto segnando in trasferta. Stai segnando in trasferta. Allora, facciamo questa cosa. Devo fare un po' di pausa. Anche perché dopo questa battuta della Guaccero, cioè, ho un caldo e soprattutto ho i dubbi perché forse non l'ho fatto giusto finora. Adesso dovrò interessarmi andiamo anch'io. A sanificare, via. Sanifichiamo tutto. Pausa e ci ritroviamo tra poco con Radio Tube. Radio Tube Social Network. Allora, io i messaggi di insulti che arrivano al 349-238-6666 non li leggo, ma li metto in conto, perché se si cerca di parlare con un po' di leggerezza, ma non perché siamo stupidi, ma perché parliamo di comunicazione e quindi non andiamo nel merito della cosa, ma parliamo di linguaggio, e che è comunque una cosa seria, perché poi il mezzo è il messaggio, la forma è il contenuto, le parole hanno importanza, eccetera, eccetera, eccetera. Vi dicevo, non leggo i messaggi di insulti, solo quelli molto divertenti, e credo di avere raggiunto veramente... l'acme. Roberto Pavanello, eccolo qua. Robby, vuoi sentire Buonasera. Questo messaggio arrivato al 349-238-6666? Sentilo. Solo se è bello. Oh, aspetta. Decenni di lotta delle donne che ancora vengono quotidianamente massacrate da chi dice di amarle, e devo sentire una cretina, che sono io, non tu, è io, ridere alla battuta sessista, non era sessista, cioè era una battuta sulla verginità, diamine adesso, di chi? Un leghista? No, non era leghista. Chi altro poteva farle? Uno che non era un leghista, perché infatti era di Forza Italia. Ora che non sei più vergine, che ne sai? Cioè, cosa ne sai di me? Nessuno darebbe dei camelli a tuo padre, tralasciando il fatto che mio padre è mancato un anno fa, quindi non riferiamoci ai genitori altrui di cui non sappiamo nulla, ma mio padre era un uomo intelligente e nessuno gli avrebbe potuto offrire dei camelli per me, anche perché mio padre l'avrebbe mandato a quel paese ridendo però, ma soprattutto ora credo, perché ho perso la verginità, sei solo una femmina senza più alcun valore, vergognati. Basta. Roberto, credo che questo posso sia... Posso chiederti una cosa, Marta? Ma perché? Perché leggerlo? Ma perché cosa è bello? Aggiunge? Ma perché è bello? Ma lasciamo perdere. Ma perché perdere. Ho perso la possibilità di essere scambiata per dei cammelli? tanto il fatto che in realtà nella cultura del deserto il cammello è veramente un bene prezioso, ma e infatti, quindi non è per nulla sminuente. No, ma infatti. Ed era proprio un modo per, che si aveva tra i beduini nel deserto per contrattare. Ma infatti io se trovo uno che mi piace un po' di cammelli mondo, li offro. Così si faceva in quel mondo lì, è ovvio che scusate, oggi Roberta in regia non ce la può fare. No, se io, allora facciamo che se trovo uno che mi piace, io non so, a sua madre offrirò dei cammelli. Allora, passiamo a argomenti più seri. Soprattutto prima vedere cammello. Cioè, vedere moneta e toccare cammello. Esatto. Perché se no non si, ah, non si già può era fare. Così, non prima vedere cammello, poi toccare moneta, poi mettere moneta nel cammello. Mettere, sì. No, non per la, far passare no. Nella crona del lago il cammello, sì, che, sì, poi che, era, andare... che però era più facile del ricco. Sì. Andiamo nello spazio. Subito andiamo nello spazio. Non nell'ospizio, nello spazio. Non lo so se ce la facciamo, perché l'altro giorno è successo questo. I know there's a lot of disappointment today. The weather got us. But I also want to say this was really, it was a great day for NASA, it was a great day for SpaceX. I think our teams worked together in a really impressive way, making good decisions all along. Allora, sei ore di diretta su YouTube per aspettare questo lancio, il tempo non era granché e quindi cancelled, anzi postponed a stasera. Succederà, partirà questo lancio della NASA, ne abbiamo sentito parlare anche nel giornale radio. Beh, per forza dobbiamo collegarci con il nostro super super super super esperto, chiocciola Dio e grazie per su Twitter, Emilio Cozzi. Ciao Emilio. Ciao Marta, buongiorno a tutti. Pronti al lancio, letteralmente. È pronti al lancio? Parte, pronti al lancio. Ho letto dopo le 21, è così? 21 e 22 per la precisione, bisogna essere precisi perché nello spazio la gente almeno lì è precisa, per cui 21 e 22 se tutto fosse confermato. In questo momento il lancio lo è, ma attenzione, il direttore del lancio, come è successo esattamente mercoledì, pochi minuti prima può annullare per motivi meteo, per esempio. Per cui insomma per ora dovrebbe essere tutto confermato, aspettiamo qualche ora per vedere se lo sarà davvero. Cioè, perdonami, qualche minuto prima, cioè questi fanno una preparazione di quanto tempo? Gli astronauti A livello di allenamento parliamo di anni, invece no, ma di quel oggi, momento lì, ecco, oggi quattro ore prima loro sono tre ore prima, in questo caso un po' più di tre ore prima, loro sono comodamente, si fa per dire, seduti nelle loro poltrone, le seat, quelle che si vendono per diverse decine di milioni di euro e di dollari, e sono lì seduti ad aspettare letteralmente che dicano loro se partire o no, anche perché può aspettare, perché al di là delle procedure di check-in e di controllo, loro letteralmente non fanno quasi nulla. In questo caso in realtà Doug e Bob sono chiamati, perché è una missione di test, a fare delle verifiche, se no tendenzialmente è tutto automatizzato, per cui loro per quattro ore aspetteranno che gli diano il go, cioè la possibilità di partire, dopodiché tutto si innescherà e automaticamente il Falcon 9 accenderà i motori Merlin che lanceranno da Cape Canaveral, prima volta in 10 anni, dal 2011 per l'esattezza, in cui due americani ripartiranno dagli Stati Uniti per andare sulla ISS. Mi pare che su YouTube sia già iniziata la diretta, sì. Qualcuno prima mi scrive: la vita non è solo YouTube. No, ma è ovvio che la vita non è solo YouTube, ma è che è il modo per seguire, ad esempio, cose interessantissime come un lancio di un razzo spaziale. Allora, in questo momento ci sono 164.089 spettatori making history, facendo la storia, infatti, e NASA è il lancio della SpaceX degli astronauti nello spazio. A proposito di linguaggio, ne stavi parlando giustamente poco fa, dando la serietà che l'argomento appunto richiede, mercoledì scorso, tre ore prima del lancio, c'erano connessi un milione di persone, che non è poco su canali social. Questo per dire che forse oggi lo spazio sta tornando ad avere quella centralità narrativa, se vuoi, che forse aveva negli anni 60, quando andammo sulla Luna, ecco. A me piace pensarla così, almeno, ecco. Devo dire che una passione, una affascinazione che forse hanno fino alla nostra generazione, perché i ragazzi più giovani adesso quel mito lì dello spazio ce l'hanno un po' meno, forse adesso può tornare. Roberto, che ne pensi? Che lo spazio ha riguadagnato spazio. Però così, così è difficile. Così è, che così, è, però, così è difficile. Però capite, però ha ragione, che oggi è difficile, no, è difficile perché ha ragione. Ha perfettamente ragione. Sì, è che oggi io devo chiedere un'indennità. Devo chiedere un'indennità a Pavanello. No, comunque, io non ho grande competenza in materia. Non sono un grande appassionato di cose spaziali. Però capisco le titubanze nel lancio dell'altra sera. Fine conti, se noi dobbiamo andare a fare un weekend e poi vediamo che il tempo è brutto, non partiamo. Allora, certo, vuoi vedere ma perché poi andare che lì non trovi bello? Esatto. Aspettiamo che sia bello. Se piove stiamo a casa, ragazzi. Esatto. Con quello che ti costa un pieno di razzo, capisci che è vero. È vero, costa il pieno di razzo. È vero che razzo, sei Elon Musk. Sì, è certo. Mi sembra un ragionamento ineccepibile, sinceramente. Allora, in realtà, per adesso, per aggiungere un po' no, di... Allora, Roberto, guarda che Emilio Cozzi è uno dei più grandi esperti di spazio, cioè, contegno, non è che puoi dire grazie al razzo così. Emilio, detto questo, allora, per tornare adesso, non voglio aggiungere un elemento di drammaticità, ma l'ho postato peraltro anche Paolo Nespoli poco fa sui suoi social. 18 ore fa SpaceX stava facendo anche in un'altra sede a Boca Chica, dove i razzi li costruiscono, un test, e insomma la Starship, che è l'astronave che secondo Elon Musk dovrebbe portarci su Marte, è saltata in aria, questo 18 ore fa, e adesso io voglio mettermi nei panni di due piloti che sono seduti ad aspettare che fra 3 ore o 4 ore gli diano il go per partire. Per cui, insomma, sì, forse il bel tempo è auspicabile. Ecco. Forse sono anche lì loro che guardano dalla finestra dicono: ma guarda, vedo una nuvoletta là in fondo. Ma in fondo, ma c'è una nuvoletta, quindi. Esattamente. Roberto, hai detto che di spazio non è il tuo pane, però il calcio sì, Roby. Cioè, Pava, tu sei grande appassionato e anche un altro tifoso, però non come Roberto Razzini. Ne abbiamo parlato nella prima ora, che tifa una squadra di Milano che non ha il rosso nella maglia. Anche tu non hai il rosso nella maglia, ma la squadra di Torino, possiamo dire sì, così. Sì, sì, sì, ecco, sì. Abbiamo capito. Sì, siete abituati a vincere, ma questa settimana non avete vinto. E tu dirai, va bene, nessuno ha giocato. Non è vero, sai. No, non è vero, so di non cosa è tu vero. Stai per parlare, lo so. E lo allora so. ascoltiamo qua, perché questa settimana ha vinto il Napoli. Ecco qua. Quagliarella, look on the far side. Insigne can maybe go for goal. He's come back. Double touch and he's in! What a goal! What a goal for Italy! What a goal for Naples! Italy have just won Euro 2020 with a fabulous goal from Insigne. Naples is probably going to be the toast of Italy. There's the final whistle. And Italy are crowned the champions of Euro 2020. Emilio, che cosa è successo? Cioè, hanno giocato gli europei 2020? Io non me ne sono accorta. Ha vinto il Napoli, cioè, ha vinto la squadra italiana, non mi sono accorta. Dov'ero? Ha vinto una squadra italiana, per la precisione ha vinto la nazionale italiana, gli europei, però quelli digitali, quelli di PES, e abbiamo ha vinto l'Italia con un gol di Insigne, con un gol di Insigne. La terza partita contro la Serbia era al meglio delle 5, abbiamo vinto 3-1, peraltro permettetemi con un po' di orgoglio nazionale, abbiamo dominato questo europeo, cioè i nostri ragazzi che poi come dire, a cui daremo il giusto tributo, cioè Nicola Lillo, Alfonso Mareo, Rosario Accurso e Carmine Liuzzi, hanno dominato sia i gironi di qualifica, le semifinali e la finale. E insomma, siamo campioni d'Europa, ragazzi. Mentre il calcio vero è fermo, in quello digitale siamo i migliori d'Europa. E questo lo allora, possiamo dire. Posso dire, Emilio, lo dico seriamente. Io ho visto queste immagini ed è impressionante perché in un momento in cui manca il calcio e sta per tornare, ne parlavamo anche poco fa, vedere una partita del genere dà ormai quasi la sensazione di vedere una partita vera. Sarà che Insigne sembrava proprio lui, la telecronaca è assolutamente reale, ma secondo te posso, c'è un... Posso dire... adesso visto che prima sono stato punzecchiato sullo spazio, adesso punzecchio è al contrario. Io, che non sono un gran fanatico di calcio, preferisco la versione digitale del calcio, perché lì non si può rubare e gli altri non possono rubare. Capito. Qua proprio è... qui proprio ci sono i galli nel pollaio che si stanno sfidando. No, però dai, fa impressione guardarle. Cioè io da non giocatrice che mi sono messa a guardarla come se fosse una partita, è impressionante. È così vero che non solo per ciò che riguarda il calcio simulato, in questo caso appunto PES, ma anche le altre discipline sportive simulate a livello di elettronico, per cui per esempio non so, Formula 1 o Gran Turismo, benissimo, stanno generando proprio in questi mesi di clausura forzata un movimento di non solo giocatori estremamente appassionati che si sfidano online, ma anche di professionisti che, orfani della disciplina reale, si cimentano per esempio in pista. C'è il campionato di Formula 1 in cui stanno correndo Albon, Leclerc, Verstappen, cioè piloti veri che non possono correre in pista, stanno sfidandosi nelle piste digitali, perché come dici tu, e lo vedete anche nel calcio, ormai diventa difficile distinguere la realtà dal digitale. Questo, come sai, è un mio vecchio cavallo di battaglia. È stato molto evidente nelle ultime settimane, sì. Beh, davvero, non voglio arrivare al pensiero che, come quando dicono i concerti virtuali potranno sostituire quelli reali, non credo che si potrà sostituire il calcio virtuale con il calcio vero. Però che qualcuno si possa appassionare anche a delle sfide, ad assistere a delle sfide così, io ci credo. Roberto, tu cosa ne pensi? Io vado in direzione totalmente opposta alla vostra. Ma figurati, ma era ovvio. Non avevo dubbi. Capisco la passione dei gamer, capisco chi gioca, che insomma è diventata veramente una vera e propria professione. Ci sono gli sponsor, ci sono i tornei, c'è gente che ci campa. Ma lo sport è lo sport va fatto con la gente in carne ed ossa, con le macchine vere, le moto vere. Anzi, vi dico una cosa, in questi giorni dove ovviamente Sky Sport non sapeva cosa trasmettere e quindi al di là di contenitori con tante parole faceva vedere anche questo tipo di attività e sentire le telecronache che praticamente cercavano di portare la stessa enfasi di una telecronaca reale sul gioco elettronico, guarda come sono anziano, gioco elettronico, mi mettevano immensa tristezza e imbarazzo. Intanto stanno suonando delle campane, non so se da Emilio o da Roberto, no. Sono tu Roberto? No, noi siamo decampanati. Ok, siete in una zona decampanizzata. Da Emilio, allora ragazzi, vado in viabilità, vi faccio sentire intanto, visto che avete citato Leclerc, Charles Leclerc è stato ospite di Alessandro Cattelan ai PCC, hanno fatto una cosa molto carina, Leclerc provava a guidare ovviamente virtualmente sul circuito di Monte Carlo rispondendo a dei messaggini sul cellulare. Quindi secondo me è una bella idea per far capire che neanche Leclerc riesce a guidare bene. Grazie Emilio Cozzi per essere stato con noi. Ciao Emilio. A presto, buona continuazione. Noi ci ritroviamo tra poco. Radio Tube Social Network. Si pronuncia Charles o Charles? Allora, Non frenare, che così è facile, non frenare. Già qua è muro, sì. Già qua è muro. Qua abbiamo fatto una strisciata, come si dice? Una fiancata, la fiancata della macchina, esatto. La fiancata della macchina è andata. Ce l'ho fatta, eh. A prendere il muro? Sì. Sì. Ho risposto. Charles. Come si chiama il ministro dei trasporti cinese? Mi ha deconcentrato. Ma perché è pericolosissimo, ragazzi, guidare così. Lo sai come si chiama il ministro dei trasporti cinese? Furgoncin. Potrebbe essere una bellissima battuta anche nel vostro circuito. Ti faccio l'ultima, Charles. Cosa hai capito che non si deve assolutamente fare guidando? La macchina ormai è completamente distrutta? È già completamente distrutta. Non si Macchina, macchina da buttare. Ah! Non si deve. Non si deve scrivere al volante. Non lo riesce a fare neanche Charles Leclerc e quindi direi che qui non servono altri commenti. Roberto Pavanello della Stampa. Ciao Roby, che bello averti qui. Buonasera. Sei cattivo come sempre, anche in conduzione con me. Sono molto felice perché Roberto, che noi chiamiamo il Pava è così, però secondo me è arrivato un messaggio per te. Proprio mentre sentiamo. Tu dicevi che non vanno bene, no? Questi campionati virtuali che tu vuoi, no? Che il calcio vero, sì. È arrivato ok boomer, credo fosse per te. Sì, ma ok, credo... boomer, però è la stessa cosa, cioè meglio Pornhub o un'uscita galante vabbè, con una bella vabbè, fanciulla. Ma adesso è la stessa cosa, vabbè, ma no, ragazzi, a me sembra un paragone un po' ardito. Però. Non dire ardito in questo ambito che potrebbe essere. Io cosa devo fare? Ma questo crede di essere la zanzara. E prima i razzi, ah, e poi no, i diti, no, perché... e no. Niente. No, niente. Comunque, a parte tutto, viva i videogames quando siete a casa con gli amici e vi bevete una birra, però il calcio in TV, allo stadio, la Formula 1 in pista, il moto mondiale in pista, il basket nel palazzetto... è tutta un'altra cosa. E mentre tu dicevi questa cosa io continuavo a pensare al paragone tra Pornhub e quelle. Ormai quel paragone lì mi è entrato in testa. Come hai passato la quarantena, Roby? Com'è stato per te? Hai lavorato in smart working? Io, allora, smart working mi pare un termine un po' forte, diciamo telelavoro. Sì, anch'io preferisco il digitale della stampa, ho un orario di inizio e un indicativo orario di fine, quindi comunque non è che faccio 2 ore al mattino, 2 ore al pomeriggio, 1 ora la sera, comunque le mie ore sono sempre quelle nel turno di desk che ho. Sto continuando tuttora a farlo, in questo momento io ho staccato dal mio lavoro di desk per venire in radio con te, ma in realtà io sto lavorando adesso, sono idealmente in redazione e continueremo fino a, non lo so, perché le presenze al giornale sono contingentate, un certo numero di persone che si alterna e chi può lavora da casa e io sono di quelli che, come diceva Totò, può e quindi sto lavorando da casa. Ti mancherà qualcosa della quarantena, perché è impossibile pensarci, però io so che a un certo punto forse addirittura... Ti dico cosa potrebbe mancarmi, io sono, come tu forse sai, un leggermente pigro. No, quindi, ma nulla, sì. Esatto, quando tipo inizio il turno delle 7 della mattina... Sapere che posso scendere da camera mia e andare a fare colazione alle 7:10 e alle 7:05 sedermi davanti al computer e iniziare a lavorare, questo non ha nessun tipo di pari rispetto invece ai 25-30 minuti che dovrei farmi in macchina per raggiungere il giornale e idem all'uscita, cioè io stacco. Adesso, prima no, ma adesso posso staccare, spegnere il computer, uscire a farmi una passeggiata o andare in palestra. Che dire, questa cosa ti mancherà. Le coliche su YouTube hanno fatto un loro bilancio di fine quarantena, eccolo qua. Signori, buongiorno. Oggi, mi raccomando, si riprende il regime lavorativo. Ah, si lavora oggi? Sì, si lavora con il normale orario lavorativo 8:18. Mazza, 8:18, tutto sto tempo. Sì, come al solito, con una pausa pranzo di un'oretta. Solo un'ora? Sì, colica, quanto vuole mangiare. Poi, se per cortesia si può infilare i pantaloni, grazie mille. Ah, ma toccava vestirsi pure sotto? Sì, pure sotto, colica, pure sotto. Senti, vogliamo uscire stasera, visto che è sabato? È sabato. Dici? Non è che dico. Dai, usciamo, andiamo a cena fuori, dai. Aspetta, che bisogno c'è di uscire? Scusa, c'ho il frigo pieno, facciamo una pasta. No, tra l'altro ho imparato una ricetta, spaghetti alla chitarra. No, io c'avevo voglia proprio della pizza, capito? Ma che problema c'è? Scusa, c'ho la farina, c'ho 1,5 kg di lievito madre in frigo. Come la vuoi? Alta, bassa, napoletana, romana, cornicione di piena, tricotta. No, Clara, io c'ho voglia proprio della situazione pizza, capito? Cioè, fritti, patatine. Ma che problema c'è? Come le vuole patatine? Al forno, fritte, listarelle, sticca, fette. No, Clara, io c'ho voglia di uscire, svagarmi un po', di prendere un po' una bella birra fresca. Ma che problema c'è? Scusa, luppolo, malto, orzo, ecco là, 5 litri di Weiss come piace a te. No, Claudio, io voglio uscire, voglio prendere un po' d'aria. Ma che problema c'è? Come la vuoi? Fresca, de mare, salina, de montagna, viziata. Niente, non c'è speranza proprio. Apo de culo. Qui secondo me un po' ti ci sei rivisto, eh? Un po' le coliche hanno colto questo spirito, anche riprendere non è sì, facilissimo. Sì, anche se loro hanno i capelli molto più lunghi dei miei, io ormai li ho tagliati, quindi sono tornato urbano. Anch'io sono andata questa settimana a farmi bella, e quindi che grandissimo momento, me lo ricorderò per tutta la vita, questo, sì. Roberto. Beh, credo che ci ricorderemo questo 2020 a lungo. E soprattutto perché siamo a metà, quindi possono succedere. Ancora io non lo evocherei quest'anno. Che... possiamo confermare o ribaltare, come dice sì, quello. Sì, il voto finale. E ti ricordo che non... appunto, c'è ancora un grande cammino davanti a noi e... Sì. E un tempo ci chiedevamo solo dove fosse finito Bugo, e poi il mondo è cambiato. Vabbè, e poi nel Bugo siamo finiti noi. E che Bugo. Roberto, grazie a Roberto Pavanello, mi raccomando. Stiamo finendo? Sì, stiamo finendo. Adesso che allora si abbattono... Allora, scusami Marta, scusa, vorrei salutare il mio pubblico. Grazie per avermi ascoltato. Se volete faccio serate, battesimi e comunioni, però, chiamate il mio agente però Adriano Attus. Adriano Attus, dobbiamo chiamare anche lui, amico del Sole 24 Ore, anche lui è stato co-conduttore di Radio Tube, grande, grandissimo personaggio. Roby, ovviamente serate in pigiama, perché... alzarsi dal divano. Certo, cioè in remoto tutta la vita. In remoto tutta la vita, questa ce la segniamo, in remoto tutta la vita. Roberto, un abbraccio grande, spero di vederti prestissimo. Bacio Roberto, grazie, ciao, Marta, a presto. È stato un piacere, buona radio. Grazie, ti aspettiamo qui. Io devo ringraziare anche tantissimo Alessandro Schirano che ci ha aiutato, come sempre anche lui da remoto, non vedo l'ora di spupazzarmelo dal vivo. Edoardo Lavezzari che ogni sabato mi sta dietro proprio, che non mi lascia commettere errori. Roberta Frisani, beh, ai bottoni. E adesso sì, siamo in ritardo di 20 secondi, allora salutiamo velocemente e ci ritroviamo il prossimo sabato ancora con Radio Tube.